si abitua e sì, si cerca di legare il suono al ricordo di il suono giusto per sentirsi vivi. Sai cosa? Ogni tuo